Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Diverse migliaia di poliziotti risultano positivi al test di Mantù sulla tubercolosi, un regalino del Ministero dell'Interno che li mandava a soccorrere gli immigrati senza dotazioni di sicurezza. Una notizia drammatica se verificata. L'ha scritto sul suo blog il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, un esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. Ecco, oggi col nostro fact-checking di Pagella Politica, cioè con le parole confrontate alla realtà dei fatti, ci occuperemo di immigrazione. Ma abbiamo scelto di partire così, con la verifica di una delle tante notizie che nella polemica politica vengono usate con o senza verifica. Nel caso concreto dell'onorevole Di Maio risentiamo la sua affermazione. Diverse migliaia di poliziotti risultano positivi al test di Mantù sulla tubercolosi, un regalino del Ministero dell'Interno che li mandava a soccorrere gli immigrati senza dotazioni di sicurezza. Ecco, è vero che sono stati infettati migliaia di poliziotti? Assolutamente no. È lo stesso Grillo, il leader di Di Maio, che smentisce Di Maio perché posta sul suo blog la denuncia del sindacato della polizia che diceva che 40 poliziotti sarebbero risultati positivi al test per la tubercolosi. Ma anche questo è vero? Cioè 40 poliziotti sono positivi al test della tubercolosi? Nemmeno questo, per fortuna, è vero. È Roberto Santa Rosa, il direttore della Direzione Centrale di Sanità, che afferma che si può escludere la presenza di malattie tra gli operatori della polizia in atto a oggi. Quindi, chiarita questa cosa importante, prima di parlare di immigrazione abbiamo al telefono l'onorevole Di Maio. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Buongiorno. Intanto la ringrazio. C'è il problema di usare delle volte a caldo affermazione ad effetto per ragioni di polemica spicciola, magari non verificate abbastanza? Devo dire che sicuramente ammetto lo sbaglio, si figuri, perché non è diverse migliaia, e il fatto che lei ha citato il blog di Grillo conferma che si tratta di un errore materiale, nel senso che il giorno prima io avevo ascoltato con attenzione anche le dichiarazioni del COSAP, che era il sindacato che era intervenuto su questa questione della TBC. È chiaro che su questo tema c'è anche molta passione. Io quando sento parlare di accoglienza degli immigrati, poi avrete modo di ascoltare dopo, sviluppare il tema. Quando sento parlare di accoglienza da parte anche di cariche istituzionali, io penso sempre a chi accoglie queste persone. Sempre gli stessi, cioè le nostre forze dell'ordine al fronte, onorevole Di Maio, che li devono accogliere. Su questo lei è sensibile. Rispondere a lei, io spero che comunque non si abbassi l'attenzione sulle dotazioni di sicurezza delle forze di polizia, stante il fatto che quei 40 citati dal COSAP rispondevano positivamente al famoso test di Mantù. Sì, naturalmente, però poi si è verificato, sappiamo che il test Il test aveva messo in allarme non poche persone. Adesso il SIULP pochi giorni fa ci ha dichiarato che due poliziotti risultano positivi alla scabbia, quindi anche su questo da molte migliaia, naturalmente, ma questo siamo onorevole Di Maio, lei ha ragione sul fatto che l'allerta deve essere alto e non c'è nessun dubbio, perché è vero che sono sempre gli stessi che poi fanno il lavoro di prima linea e quindi vanno tutelati al massimo. Questo è un discorso. Apprezzo molto il fatto del fact checking, perché in un momento politico in cui ognuno dice la sua verità, verificare le cose è ci proviamo. Io invece devo dirle la verità, la ringrazio e apprezzo molto il suo coraggio. È capitato ad altri di essere chiamati in causa e di non accettare la verifica fatta, come vede, con assoluta trasparenza. Quindi la ringrazio molto per il suo intervento e per il fatto che ha riconosciuto il suo errore. Grazie e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie. Intanto, naturalmente, gli sbarchi continuano, li sentiamo, 800 24 00 24. Naturalmente, se qualcuno vuole intervenire anche su quello che ha detto l'onorevole Di Maio, con una certa onestà intellettuale da apprezzare, il numero SMS 349 238 6666. Dicevo, gli sbarchi continuano e dal 1 gennaio di quest'anno sono scomparse in mare 2000 persone. Nel frattempo è passato un mese da quando il ministro Alfano è andato in Europa a raccogliere, a tentare di raccogliere la collaborazione dei paesi membri per potenziare l'agenzia, ricordate, l'agenzia Frontex che dovrebbe occuparsi di immigrazione. Ecco, per ora ha incassato il sì di Germania, Francia e Spagna, ma il sì a che cosa ha incassato? Ha incassato l'Italia. Ecco, Michele Cercone è il portavoce del commissario dell'Unione Europea agli affari interni, la Malmström, Cecilia Malmström, che sarà in carica fino a novembre, poi arriverà la squadra di Juncker. Ecco, dottor Cercone, a fine agosto è stato raggiunto un accordo per l'istituzione di Frontex Plus, ma un accordo esattamente su cosa? Allora, l'accordo in maniera molto concreta mira a unire due formazioni Frontex attualmente operative nel Mediterraneo per aiutare l'Italia, che si chiamano Hermes e Eneas, quindi verranno fuse queste due operazioni, verranno estese anche in termini di uomini, mezzi e gestione complessiva, in maniera da complementare e affiancare il più possibile gli sforzi che l'Italia sta già facendo per la gestione dei flussi, ecco, migratori e dei richiedenti asilo. Dottor Cercone, ma Bruxelles ha aperto il bando per ottenere fondi, sì o no? Guardi, non c'è un bando, però i fondi, per ottenere i fondi per questa iniziativa ci si muove su tre direzioni ben distinte, due molto concrete. Cioè, ecco, parliamo di quelle concrete. Sì, la Commissione sta cercando ed ha identificato una serie di risorse di bilancio già esistenti che verranno reindirizzate per finanziare la fase iniziale dell'operazione. Di quanti soldi stiamo parlando, per essere concreti, dottor Cercone? In questo momento purtroppo non è possibile fare cifre, per un motivo molto semplice, cioè che il successo dell'operazione dipenderà dagli uomini e dai mezzi messi a disposizione dagli altri stati membri. Vabbè, quindi, e quindi si può dire che siamo ancora in alto mare? Diciamo. No, assolutamente, al contrario, siamo in fase avanzatissima, però mi permetterà di non rivelare dei dettagli che sono ancora in via di definizione. Naturalmente, però avete un'idea dei paesi che contribuiranno? Perché la Spagna ha detto sì, la Germania ni, poi chi c'è d'altro? Guardi, funziona così in termini concreti: una volta individuati i mezzi, le risorse necessarie, Frontex chiama tutti i paesi a contribuire. Ora, da quello che abbiamo visto finora, i segnali sono incoraggianti, mi sembra di capire che la Francia, la Spagna, la stessa Germania, mi sembra. Però non riusciamo a dire, non riusciamo a quantificare, diciamo. Beh, quantificare è molto complicato perché... Però è la cosa più importante. Certo, ma questo verrà fatto nel momento in cui l'accordo definitivo sull'operazione Triton verrà. E quando pensa che può capitare? Possa ma io capitare. Noi speriamo nell'arco delle prossime settimane di avere tutti i dettagli. I dati. Ormai... Però l'Austria intanto chiede la chiusura delle frontiere e la sospensione di Schengen, quindi insomma va in un'altra direzione. Però bisogna anche tener conto e fare la differenza tra gli annunci o le intenzioni e la realtà concreta. Non mi sembra che a questo punto l'Austria abbia in nessun modo reintrodotto controlli alle frontiere Schengen. Senta, ma Frontex Plus sarà sostitutiva oppure no? Alfano dice di sì, la Malmström mi sembra che più volte ha parlato di affiancamento. Sì, ed infatti la parola giusta è questa. Triton, la nuova operazione, mira ad affiancare gli sforzi italiani. Questo vuol dire che il futuro di Mare Nostrum, che è un'operazione militare, sì, è esclusivamente nelle mani del governo italiano, che deciderà quello che fa. Per quanto riguarda la Commissione Europea e Frontex, noi affidiamo, su richiesta dell'Italia, uno strumento che speriamo il più ampio possibile, il più finanziato possibile, diciamo. Ma sul finanziamento non ci sono dubbi, perché le operazioni e le attività di tutte le imbarcazioni, gli aeroplani, gli elicotteri e degli uomini che verranno messi a disposizione saranno poi coperte da Frontex. Quindi lei è anche un comunicatore, un giornalista, dottor Cercone, e quindi se dovesse fare un titolo domani, un titolo su Frontex Plus, cosa direbbe? Frontex Plus, due punti, i soldi arriveranno? Ah, io direi Triton, la solidarietà europea si concretizza, la vedrei molto più da questo punto di vista, perché è una missione, un'operazione concreta che avrà come obiettivo quello di sollevare l'Italia in due sensi: uno per quanto riguarda i costi dell'attuale sistema di monitoraggio e sorveglianza, e l'altro per quanto riguarda proprio la presenza di imbarcazioni, uomini, elicotteri, aerei che proverranno da tanti da altri paesi. Diversi. Ecco, dottor Cercone, però mi dica una cosa. Le sembra mai possibile che Frontex, che dovrebbe risolvere o comunque essere lo strumento per affrontare i problemi dell'immigrazione, sia in Polonia, non per esempio in Sicilia, faccio per dire? Allora, partiamo da un presupposto. Frontex è l'agenzia che aiuta gli stati membri nei loro sforzi di sorveglianza delle frontiere esterne. Quindi intanto non si sostituisce alla competenza e alle responsabilità degli naturalmente, stati membri, però, ma li affianca. Però, insomma, da diciamo, questo punto di vista, come segnale. Certo, no, ma bisogna guardare una cosa semplice, cioè che la sede di Frontex alla fine è un palazzo con alcune centinaia di persone che si occupano di organizzare le missioni. L'attività di Frontex invece, che è quella cruciale, si svolge laddove c'è bisogno. Sì, quindi lei Frontex dice con la rete non c'è bisogno che sia a Lampedusa, ma può stare benissimo anche, in Frontex, Polonia. In questo momento Frontex è allo stesso tempo in Grecia, nel Mediterraneo, alle frontiere dell'est dell'Europa, alle frontiere del nord. Frontex è diciamo la scatola organizzativa, si trova a Varsavia, ma l'attività è nei paesi in cui si svolge. Senta, un'ultima domanda, dottor Cercone. Una volta aiutati i migranti nel mare, grazie a questa, speriamo, reale sinergia di più paesi, poi dove vengono portati? Sempre in Italia? Beh, guardi, questo sarà definito nelle linee operative di Triton. È chiaro che di solito nella prassi di Frontex, Frontex si occupa dell'aiuto al monitoraggio e alla sorveglianza, poi l'elemento di ricerca, l'elemento di assistenza in mare e di salvataggio rimane una competenza esclusiva degli Stati membri, quindi è chiaro che in quel caso verrebbero portati in Italia. Resta però un quindi elemento sempre importante. Sempre in Italia, diciamo, per essere concreti. Sì, per essere concreti sempre in Italia. Principio saranno in Italia, però c'è a questo punto un discorso e credo per la prima volta un'apertura che vediamo arrivare anche da altri paesi anche sul fatto che in Europa al momento 5 soli paesi, inclusa in questo momento l'Italia, ricevono il 75% delle domande d'asilo, quindi c'è anche una riflessione in corso da parte degli Stati membri su un'eventuale chiave di ripartizione che, ripeto, dal punto di vista della Commissione... Beh, credo che sia difficile che possa restare un problema solo di 5 paesi. Esatto, ed è per questo che credo che, almeno vedendo la lettera che è stata indirizzata anche alla Commissione in proposito, credo che ci sia un'apertura nuova, una riflessione diversa. La Commissione non può obbligare i paesi a avere una quota o a ripartire i richiedenti asilo, ma di certo i paesi stessi possono fare molto di più e credo che la direzione verso cui si sta muovendo la riflessione politica attuale sia per la prima volta da questo punto di vista si assiste ad un'apertura che non abbiamo visto negli ultimi anni. Dottor Cercone, un'ultimissima cosa, quanti morti ancora ci vogliono nel mare perché questo problema diventi un problema un po' più di tutti? Guardi, io non penso che sia una questione di morti nel mare, è più anche una questione, no, perché bisogna anche tener conto della realtà dei fatti. Appunto. Le ultime tragedie sono avvenute praticamente tutte nelle acque territoriali libiche e lì, mi scusi, ma possiamo anche raddoppiare il numero di navi disponibili. No, non tutte non lì, si può, no, non non si può fare lì molto più di questo. Credo che ci voglia un approccio che noi abbiamo provato sempre a spingere, molto comprensivo, cioè bisogna non soltanto affrontare il tema dell'immigrazione alle frontiere dell'UE, ma certo ma che no, certo, nei paesi di origine e di transito. Noi abbiamo bisogna creare accordi, sviluppo lì, sì, certo, ma anche proprio cooperare con questi paesi. Noi abbiamo concluso accordi con Tunisia, Marocco, un accordo di riammissione con la Turchia. Resta il problema vero della Libia. Fino a che non si affronta questo problema, ma fino a che non ci sarà una stabilità politica in Libia, sarà molto difficile. È chiaro, questo è evidente. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, vorrei leggere una cosa che è interessante. Francesco, un non grillino, dice: la prima volta, parlando dell'intervento di Di Maio, è la prima volta che sento un onorevole scusarsi per aver detto una cosa non vera. Questo è davvero apprezzabile. Non da tutti, è vero, in effetti è così. Che dici, Mario? L'intervento del nostro amico portavoce Di Maio è anche stato bene. No, Di Maio è stato bravo, bravo, serio, gli fa un onore. No, l'intervento su Frontex conferma tutte le difficoltà che molto ci sono difficile per mettere in piedi l'Europa. Insomma, cioè, butta dobbiamo fuoco queste cose, le sa bene, è siciliano. Quindi. Che dici? Ma io vorrei ritornare infatti alla domanda che tu, Giovanni, hai fatto a Cercone. Sì. È veramente difficile da spiegare perché mai la centrale di controllo debba essere in Polonia e non in Sicilia. Ha risposto, se non ho capito male, che comunque la questione fondamentale è quella della rete affidata ai computer, però bisogna dire in punto di realtà che abbiamo bisogno di proiettili contro gli scafisti e non di computer. La fase ormai ha un livello incancrenito altissimo e quindi più proiettili, meno computer. L'intervento in Libia è fondamentale. Non c'è dubbio, anche loro lo riconoscono. Ecco, comunque l'argomento dei migranti naturalmente è circondato da confusione e anche da molti luoghi comuni. Da un'ignoranza che riguarda tutto l'arco dei partiti, abbiamo sentito l'errore di Di Maio, per esempio, per parlare di un altro fronte politico, il sindaco di Milano Pisapia sui rifugiati ha detto questo: arrivano circa 1000 rifugiati al giorno, siamo veramente al limite. Questa sua dichiarazione, questa è la dichiarazione di Pisapia. Ecco, ma la dichiarazione è frutto di disinformazione, abbiamo verificato anche questa informazione, questa dichiarazione, risentiamola bene. Arrivano circa 1000 rifugiati al giorno, siamo veramente al limite. Ecco, non solo non è vero, ma è impossibile. Vorrebbe dire veder sorgere una città come Firenze ogni anno. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, in Italia risiedono 78.000 persone con lo status di rifugiato. Quindi i conti non tornano. Ma neanche se Pisapia si riferisse più genericamente ai clandestini il numero non sarebbe corretto. Perché non sono più di 300.000 all'anno. Sono 300, dunque, sempre dai dati del Ministero degli Interni, negli ultimi 12 mesi i clandestini entrati in Italia sono circa 320 persone al giorno e non 1000, come ha detto Pisapia. Quindi la dichiarazione di Pisapia è sbagliata, abbiamo naturalmente cercato il sindaco di Milano, era impegnato, ma gli rinnoviamo l'invito per qualunque momento lui ritenga opportuno intervenire su questo e su altri temi. Per dare una dimensione vera, però, per chiudere questa pagina, una dimensione vera, umana, a un tema complesso e antico come quello della migrazione dei popoli, ascoltiamo una storia di Zaccaria. Zaccaria, lei è un giornalista e 6 anni fa è fuggito dal suo paese, la Somalia. Ma come è arrivato in Italia? In Italia sono arrivato con una barca, facendo un viaggio attraversando il deserto del mare. Dopo 8 mesi alla fine sono arrivato in Italia. In questo viaggio ha avuto paura di morire? È una cosa comunque difficile spiegare. Cioè, la morte fa parte della vita, però quando si lontana dalla famiglia hai paura che muoia in mezzo al mare, lontano dalla famiglia, quindi, questo è la paura. Quindi Zaccaria, il momento più pauroso e più duro è quello sulla barca, più ancora del deserto? Sì, in realtà, perché il deserto puoi anche prendere alla fine una decisione per camminare finché sopravvivi, però in mezzo al mare non puoi prendere nessuna decisione. E come si vive la traversata? C'è sempre comunque un miracolo, una fortuna che ti dà la possibilità per sopravvivere. Vedi delle situazioni molto difficili e vedi la mancanza dell'acqua e il cibo, la forza che hai è quello di non perdere mai la speranza di vivere, di raggiungere un obiettivo e di trovare una condizione meglio di quella che abbiamo fuggito. Zaccaria, ma in queste condizioni così difficili si riesce ad avere solidarietà verso i propri compagni di viaggio? Guarda, che è l'unica cosa vera che puoi avere durante il viaggio è proprio il compagno di viaggio, perché il vero amico anche riesci a conoscere nel viaggio. Quando stai nel deserto o nel mare ci aiutiamo uno all'altro e questo anche ci permette in qualche modo per sopravvivere. Zaccaria, invece, lei perché è dovuto scappare dalla Somalia, dal suo paese? La Somalia in 20 anni sta attraversando un momento molto difficile. Io personalmente, dopo che sono stati uccisi i miei colleghi e anche il mio maestro di giornalismo Mahad Ahmed Ilmi, ho deciso di lasciare il paese perché mi sono anche arrivate delle minacce che non potevo... Minacce da parte di chi? Sono state persone, diciamo, contro la libertà della parola, ecco, che non volevano che i giornalisti potevano dire la verità. Quindi possiamo immaginare che sono stati detti al Shabab integralisti o potevano essere altre persone che fanno parte delle signore di guerra. Lei perché ha scelto proprio l'Italia? In realtà il destino ha voluto di portarmi fino all'Italia, perché una volta che hai lasciato la Somalia arrivi in Etiopia. In Etiopia, non potendo esercitare il mio mestiere, sono stato trasferito dal Sudan in Khartoum, e dopo arrivi la Libia. Una volta che sei arrivato in Libia non puoi lavorare, non puoi farti una vita tranquilla, e l'unica scelta è quello di prendere una barca per poter arrivare. Ma quindi lei ha pagato uno scafista? Sicuramente, perché ho pagato circa $900. Zaccaria, adesso però lei è regolare, lavora e paga le tasse qui in Italia. Ma quando è stato, se lo è stato, più difficile per lei integrarsi nel nostro paese? In realtà, grazie ai miei amici, le persone che mi hanno dato la fiducia, che mi hanno fatto sentire come fosse a casa. E grazie a questi miei amici che mi hanno permesso in qualche modo a trovare un modo per inserirmi nella società e trovare un lavoro e pagare la tasse. Senta, lei, Zaccaria, ha girato anche, facendo il giornalista, un documentario a Lampedusa e lì, insomma, ha cercato di raccontare e raccogliere le storie di chi come lei ha vissuto lo stesso viaggio. Ma che cosa ha scoperto da quelle persone? In realtà, quando fai il viaggio ci vivi, perché sei dentro. Però una volta che hai superato quella fase, che sei arrivato oltre, è diverso il mio sguardo quello di 5 anni fa. Quindi il mio ritorno di Lampedusa mi ha permesso anche di vedere con altri occhi diversi di quello che avevo. E che effetto le ha fatto tornare a Lampedusa? Ne ha fatto un effetto molto bello, è come un viaggio da uomo libero, non da uomo di un viaggio forzato, tra virgolette detto clandestino. Grazie mille, Zaccaria. Grazie a lei. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, tantissimi SMS di reazione all'intervento del portavoce Cercone. Molti, quasi tutti, li riassumo sostanzialmente, ci dicono e siamo soli. Va bene le parole, ma l'Europa o interviene per davvero, questa cosa che anche Frontex sia in Polonia e non in Sicilia anima un grande dibattito, dice no, dovrebbe essere in Sicilia, ma in Sicilia potrebbe costare 100 volte di più di quello che costa in Polonia. Quindi, diciamo, ci sono molte posizioni, molte incertezze, però è un dibattito molto animato e molti riconoscimenti a Di Maio, che ha avuto il coraggio di dire mi sono sbagliato. Ci invitano a fare dei fact-checking su Renzi, faremo i fact-checking anche su Renzi, tranquillizziamo i nostri ascoltatori. Mix 24. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu. Ma Pietrangelo, non ti ispiri più in metropolitana? Non la citi più la metropolitana? A volte quindi capita di camminare e questa canzone mi capita di attraversare le strade, osservare le facce. Siccome la crisi economica incombe, urge una stagione neorealista e tutto lo spazio del sogno non può che essere votato all'amore, perché camminate e vi accorgerete che la gente si sveglia negli affanni, la notte si consuma nell'ansia, l'amore resta perduto e quindi l'unico moto è il canto. E poi non è poco la voce di Mariangela Melato, l'orchestra di Renzo Arbore e il sentimento tutto italiano di speranza, disfatta e malia. E passo tra la folla che non sa. Sono preoccupato. Che coppia in realtà, che bellissima coppia. È una coppia meravigliosa, Mariangela e Renzo. Bene, che cosa bolle nella pentola di Mario Secchi oggi? Tocca a me, va bene, sentite qua cosa bolle. Invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato, resto qui, visto. nostro corpo disperato ancora un po'. Vabbè, salirò. Salirà? Saliranno? Saliranno. Ah. Però è l'unica cosa che sale. Cioè, arriveranno? È il debito. Allora, c'è un rumorino nel palazzo da un po' di giorni. Si dice. Noi lo riportiamo per dovere di cronaca, ovviamente. Cioè, naturalmente non ci crediamo. Io non ci credo mai. Io neanche. Se lo vedo, però. Che cosa? Dicono che arriverà la troica, che siamo molto a rischio, che i conti vanno male. Allora, questo è vero, cioè i conti non vanno bene, il PIL non c'è, il lavoro è nessuno si cura più del debito. Io continuo ad essere molto, molto sorpreso su questo, che nel frattempo dal 2007 al 2013 il rapporto con il PIL è schizzato dal 103 al 132. L'OCSE prevede che sfonderà il 137%. Però quest'anno. Sappiamo che le previsioni dell'OCSE sai, però sempre più di 130 quello non cambia. Quello non cambia perché non si abbassa in assenza di politiche che abbattano il debito. Quindi, certo. Questo è sicuro. E insomma, il rapporto diventa insostenibile, lo era già, lo diventa anche sempre di più. Anche perché c'è la deflazione. Esatto, per effetto della deflazione. Ed è per questo, io segnalo, che si comincia a parlare, a scrivere di che cosa. Per ora la cosa è a livello di, tra virgolette, politiche coordinate. Ora, dalle mie parti, le politiche coordinate, sai, poi diventano una sorta di gabbia forzata. Per è lì che senti odore di troica, insomma. Sì, abbastanza. Ed è per questo, secondo me, che insomma, siccome la situazione ha bisogno di essere sbloccata e velocizzata, che segnalo il fatto che insomma l'esternazione del capo dello Stato, che diceva basta conservazioni e fare riforme, insomma segnala che siamo in una zona non di pericolo, ma comunque zona pericolo. Bisogna starci attenti, insomma, la politica non è una scienza, però ha una logica, e se tu unisci tutti i puntini con i tratti veri delle cose, e delle cose stanno succedendo. Per cui, adesso vediamo cosa succede con la legge di stabilità e poi andiamo un po' voliamo verso il mondo, dai, dall'altra parte del mondo. Dilma, cos'è? Fixi-enci! Não vuole combater com as suas armas! Siamo sempre a lei. Ancora Marina Silva, questa è la sigla dei mondiali del Brasile. Non sono andati bene per il Brasile, però cosa avevo detto ieri? Attenzione, sta emergendo un nuovo leader, una nuova voce nella governance globale, ed è quella di Marina Silva. E guardate, oggi il Financial Times ha certificato tutta la faccenda con un pezzo, prima pagina, e questa sfida tra due donne, tra Dilma Rousseff e Marina Silva, è veramente molto interessante. Si vota in ottobre per la presidenza, e due belle storie: la Rousseff fu torturata e imprigionata negli anni della dittatura, negli anni 70, la Silva è figlia di una poverissima famiglia amazzonica, senza alcuna educazione fino all'età di 16 anni, ha fatto un intervento meraviglioso, quello che abbiamo ascoltato ieri e oggi abbiamo riproposto brevissimamente. Io consiglio a tutti di seguire le elezioni del Brasile, perché è uno saranno dei paesi importanti. Che comunque, da cui comunque dipende la crescita mondiale. Insomma, dalla fine del mondo stanno arrivando è sempre notizie così. Di ogni genere. Noi insomma, decliniamo dal Papa alla... noi decliniamo, loro emergono. È la storia che va avanti, noi non la possiamo fermare così. Salamino. L'articolo 18 è dunque lo scoglio su cui Matteo Renzi rischia. Interessante intervista oggi sul Corriere della Sera di Gianni Cuperlo, che dice: non leggo Marx. Non leggo Marx, ha dunque spiegato il leader della minoranza interna del Partito Democratico, ma lo trovo più attuale di Davide Serra. Allora, che Davide Serra sarebbe il banchiere di riferimento della, diciamo, della finanza piritolla, no? Quello che si appoggia a Matteo Renzi. La finanza piritolla, qui stiamo. Pensa a Wall Street. E convergenze parallele sono niente. Andiamo alla City. Andiamo alla City e diciamo: guardate, noi stiamo cercando la finanza piritolla. Dov'è? Sì, ma perché non l'avete notato? Tutta questa gran moda di esperti di economia e finanza. Sono tutti piritolli. Un po' troppi. Che hanno quello stile piritollo, sì, no? Sì, senza cravatta. scatta il polsino e della camicia slacciato. E quindi, allora dicevo, lui preferisce, giustamente ha detto Cooperlo, che Carlo Marx ne sa più di questo Davide Serra. Beh, quello è sicuro. Ma tu dici? Ma Carletto è sempre Carletto. Carletto è sempre Carletto. Sepolto a Londra. L'analisi del capitalismo è sua, non di Davide Serra. Allora, essendo io un relitto del totalitarismo, faccio mia la definizione che Giovanni Gentile diede dei comunisti quando li definì corporativisti impazienti. E offro agli ascoltatori, se Giovanni Minoli mi dà l'autorizzazione, me lo consente, la prima. Ahimè, c'è libertà. La prima di una serie di lezioni di marxismo a cura del professor Carunchio. Come ben a sentire, fermata. Danaro per comprare chi sto pesce, non gente. Se te lo vuoi comprare questo pesce, te lo devi guadagnare. Lavami mutanda! Donna Giaffella non l'aveva lavate mai mutanni, perché era stata sempre di sopra. Ma che se giova di sotto, a donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutanni. Ma il lavoro è nobile dall'uomo, e a maggior ragione nobile dalla signora femmina. E avendo ascoltato prima Mariangela Melato, adesso Mariangela Melato nella veste di allieva di marxismo con le lezioni di professor Carunchio, ovvero Giancarlo Giannini. Giganti. Fantastico. Senti, ma dice un nostro ascoltatore, non pensate che Pisapia si riferisse agli ultimi giorni a proposito della citazione della frase di Pisapia? No, Pisapia l'ha detto il 30 giugno scorso a Repubblica, quindi non sono questi giorni. Quota rosa. Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Raccontare chi siamo è questo lo scopo di Italine Day, che sono andata a vedere ieri sera perché c'era la presentazione qui a Roma. Ed è un progetto di Rai Cinema che ha raccolto 45.000 filmati girati dagli italiani tutti nello stesso giorno, che era il 26 ottobre scorso. A me è piaciuto, o almeno diciamo che ogni tanto mi ha fatto commuovere e ridere. Come quando per esempio c'è una mamma che studia il cinese e i figli le chiedono: ma perché lo fai? E lei: perché quando andrete a fare i badanti in Cina per colpa della crisi almeno potrò venirvi a trovare. Cioè, l'ho trovata geniale questa madre. Oppure c'erano, non so, delle schegge di tenerezza e di verità, come una bambina che a 2 anni si fa l'insulina da sola. Ma il vero spettacolo, ragazzi, era in sala. Lucia Annunziata, per esempio, dopo aver salutato educatamente tutti i suoi amici in sala, al 5° minuto si è alzata e se n'è andata, perché forse, io non lo posso sapere con certezza, esaurite le pubbliche relazioni, evidentemente era già pronta per tornare all'Huffington e parlare del documentario. Che fortuna essere esperti, 5 minuti e già si sa tutto. Insomma, c'era una platea sterminata di attori, attrici, un'armonia e un amore che non vi dico tra di loro. Però un momento in cui sono andati d'accordo c'è stato, quando hanno applaudito il regista Salvatores. Del resto è un potenziale datore di lavoro per loro, quindi E infine una scena inedita che ho avuto la fortuna di cogliere: il ministro Boschi non era circondato da fans, ma lo scettro ieri sera era tutto del ministro Madia. Mix 24 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 gli sms. Ricordo ai nostri ascoltatori che è meglio firmarli gli sms, soprattutto quando si insulta, i complimenti non importa, perché così possiamo rispondere anche a chi ci dice che siamo ridicoli, ci faremo spiegare perché se ci dice chi è. Intanto Emiliano da Terracina, invece, lui si è firmato, chiede a Buttafuoco: ma cosa intende Buttafuoco per proiettili contro gli scafisti? Sparare ai barconi? Gli scafisti sono quelli che per esempio prendono i bambini e li buttano in acqua e li lasciano morire, prendono per esempio le persone quando si avvicinano le motovedette e le buttano in acqua, anzi si sono viste scene in cui proprio li affogano a maggior ragione a colpi di remi. Significa quindi che, siccome è soltanto quella dei trafficanti una vicenda criminale, bisogna gestirla come una terribile vicenda criminale, ancora peggiore del traffico della droga, ancora peggiore dei traffici che il mondo del crimine. In questo senso, quindi, bisogna adoperarsi affinché si mobilitino i servizi segreti, gli agenti speciali, le forze che con la maggiore violenza riescono a piegare una che è sicuramente tra le più grandi macchinazioni criminali che il nostro mondo oggi affronta. Per rilassarci un po', il canzoniere. Io non so proprio come abbia potuto perderlo. Ecco, io mi inginocchio e dico che io non abbia più pace se la mia volontà con parole, pensieri, azioni ha offeso il suo amore, se gli occhi, le orecchie e tutti i miei sensi provarono piacere vedendo un altro uomo come l'ho sempre amato e sempre l'amerò con tutta la mia tenerezza, anche se ora egli mi scaccia da sé come una mendicante. La crudeltà può fare molto, ma la sua crudeltà può solo distruggere la mia vita, non diminuire il mio amore. Il 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Il 23 settembre dell'85 moriva a Napoli Giancarlo Siani, un giornalista precario che denunciava senza paura il sistema di Camorra. In campagna con Marina Miloni, subito dopo il GR, raccontiamo la storia di Giancarlo Siani e la sua eredità. Mario, ancora una bolla? Sì, senti qua. Siamo in America, segnalo solo che Obama sta facendo un'inversione di rotta sulle aziende offshore, gli utili, la delocalizzazione, e ci saranno novità dalla Casa Bianca, quindi è un primo segnale, è un primo warning a titani come Google, Apple, vabbè, non solo. Noi ne abbiamo parlato tanto, ne parleremo ancora tanto. Portano tutto all'estero, no? Ancora un salamino? Allora, ce l'ha Filippo Sensi, che è il portavoce del Premier. Ce l'ha Luca Lotti, che è lo scudiero numero uno di Matteo Renzi. Anzi no, ce ne ha due. Uno è turchese e l'altro è rosso e giallo. Dopodiché Antonella Manzione, che è l'ex comandante dei Vigili di Firenze chiamata Palazzo Chigi, ne ha un'intera collezione, sono ben 300. E ogni volta che arriva un rosicone a Palazzo Chigi succede questo. Oh, che bel gufo impagliato! Impagliato, bada come parli! Ma è vivo e parla! È sicuramente molto meglio di te! Praticamente è una mania piritolla. Ed è peggio dei nani da giardino, quelli che vengono messi nelle villette. Prima o poi bisognerà organizzare le squadre di liberazione dei gufi, che però parlano come Anacleto, che abbiamo sentito prima, il saggio gufo di Merlino. E ascoltate che cosa ha fatto Anacleto, il gufo, all'annuncio dei 1000 giorni di Matteo Renzi. Vabbè. E questo era solo il 999esimo giorno. Vabbè, ho capito che ci porteremo avanti tutta la stagione. Ricordo che avremo dopo il GR la storia di Giancarlo Siani raccontata insieme a Marina Milone. Sentiamo un ultimo pezzo del film. Io voglio fare il giornalista. E lo sapevo che mi dicevi questo. e magari vuoi fare pure il giornalista, no? No, perché anche qua ci stanno due categorie, ci stanno i giornalisti, e i giornalisti impiegati. Io a verità ho scelto la seconda categoria. Ma devo dirti la verità, non mi trovo male, sì.